per vivere insieme devi stringere il cuore, trattenere la pelle. La libido si piega alle leggi del mondo, niente incesto, niente forza, niente cielo profondo. Così la spinta che hai dentro al petto si traveste in lavoro, in oggetto perfetto, in desideri messi in vetrina tra bisogni finti e notti in benzina. Ma io cerco la pace, non il possesso, non il controllo totale dell'universo. Cerco il grembo antico che avevo già dentro, quell'omeostasi che mi rimette al centro. Non voglio un io Dio che regna sovrano, voglio l'amore che mi prende per mano. Marco se grida è una trappola sottile, questa repressione addizionale è civile. Ti rubano il sogno, ti vendono il resto, lavoro sottopagato, consumo indigesto. La libido deviata in carrelli pieni, i corpi vicini ma tutti più alieni. Rivoluzione promessa a metà, poi 68 il mercato se lo prenderà. E noi a comprare briciole di senso nel centro commerciale dell'onnipotente, quando la fame è vera se la guardi da vicino è solo una nostalgia del primo nido materno. Ma io cerco la pace, non il possesso, non il controllo totale dell'universo. Cerco il grembo antico che avevo già dentro, quell'omeostasi che mi rimette al centro. Non voglio un io Dio che regna sovrano, voglio l'amore che mi prende per mano. Pasolini l'ha filmato fino all'osso, un nuovo fascismo che si veste di torso. Salò che ritorna in ogni competizione, dove il corpo dell'altro è solo una posizione. Rivoluzione sessuale, ma di chi è il guadagno? Se la libido è merce, non è più un compagno. Le masse si azzannano per un po' di potere, la lotta di classe non si riesce più a vedere. Allora dimmi dov'è la liberazione, se l'eros è schiavo della televisione, se ogni desiderio finisce a rate, se l'anima gioca in borsa con le sue fate, le religioni, il capitale, le grandi idee usano endorfine per le gare. Cerca solo di essere amato. Io cerco la pace, non il possesso, non il controllo totale dell'universo. Cerco il grembo antico che avevo già dentro, quell'omeostasi che mi rimette al centro. Non voglio un io Dio che regna sovrano, voglio l'amore che mi prende per mano. Forse a Dio va restituito il suo posto, non come un capo da temere ad ogni costo, ma come nome di un bene più grande che unisce le ferite invece di fare domande. Non più l'io che si mette la di davanti, perfetto in versione umana, ma la fede nell'amore che ci tiene alla mano. Come si arriva a questa pace in terra di guerra? Non basterà una bandiera né cambiare solo terra. Il comunismo ha fallito, il capitale ci ha tradito, ma forse la rivoluzione è in come avrò amato ogni volto ferito. E mentre il mondo corre verso il prossimo errore, io scelgo l'omeostasi di un semplice amore. Tra Freud, Marcuse e un vecchio altare, provo a restare umano, provo a ricominciare. Io cerco la pace, non il possesso, non il controllo totale dell'universo.